Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, siete in ascolto come ogni lunedì dalle 20 alle 21 a 451 Intersezione, trasmissione di musiche sperimentali, trasmissione nuova lanciata a settembre-ottobre del 2014, trasmissione che ricordo per coloro che si fossero messi in ascolto solo la prima volta, per la prima volta su queste frequenze, trasmissione che porta avanti il progetto radiofonico che diciamo è durato per diversi anni su Radio Città Fujiko di Pier Antonio Pezzinga, Intersezioni. Abbiamo costruito insieme a 451 frammenti sonori, che è il nostro progetto, e potrete trovare tutte le trasmissioni passate, presenti e future di 451 Intersezioni e 451 frammenti sonori sul nostro blog no blog 451 frammenti sonori.noblogs.org. Appunto, dicevo, la trasmissione è nuova ma porta avanti il filo rosso di memoria di Pier Antonio Pezzinga e l'abbiamo voluta appunto intitolare 451 Intersezioni. Abbiamo iniziato nel 2015, lo scorso lunedì, la prima puntata del nuovo anno con un percorso musicale legato alla musica improvvisativa e al free, e dunque Music Free Improvisation 2015 era la puntata, il titolo della puntata della trasmissione scorsa, che già presente nel nostro blog, per cui se volete ascoltarla o riascoltarla o individuare gli album, gli autori inseriti in trasmissione, troverete tutto appunto nell'indirizzo che vi ho dato prima, 451 frammenti sonori.noblogs.org. E stasera ovviamente vi auguro una buona serata e un buon ascolto stasera con le trasmissioni di 451 Intersezioni. Un saluto da Elisio Scarpa, che conduce stasera la puntata dedicata alle musiche contemporanee. Infatti il titolo della trasmissione è Costruzioni, distruzioni contemporanee. Lavoreremo con dei frammenti di compositori legati alla musica contemporanea, ma anche che escono, lambiscono e intersecano il mondo della musica contemporanea, sicuramente non di matrice accademica, ma tutto ciò che sperimenta anche al di fuori, che incrocia linguaggi legati all'elettronica, alla musica improvvisativa, anche in alcuni casi ad accenni legati alla musica ambient e post-ambient. Dunque un percorso di costruzione ma anche di distruzione della musica contemporanea così come è conosciuta diciamo in maniera ufficiale e canonica. E apriamo la trasmissione di stasera con un'autrice molto molto interessante, che si muove proprio in questo tipo di contesto tra la contemporanea ma anche intersecando la musica elettronica e la musica improvvisativa. Si tratta di Okyung Lee, violoncellista estremamente interessante, emersa nella scena musicale sperimentale negli anni zero, lavorato oltretutto con musicisti che spesso hanno attraversato 451 Intersezioni e 451 frammenti sonori, cioè Christian Merkley, ma anche musicisti importanti della scena più legata al jazz come Elliot Sharp, scusate, ma anche Zina Parkins, Mark Ribot, e musicisti invece più legati alla scena più strettamente contemporanea. L'album che andiamo a ascoltare, in parte ovviamente una traccia traccia di questo lavoro è uscito nel 2010 ed è intitolato Noisy Love Songs, e appunto in questo disco molti elementi legati anche al noise, dunque al rumorismo, emergono nelle composizioni di Okyung Lee. Un lavoro uscito oltretutto con un'etichetta estremamente seguita da noi di 451, cioè la Zadig, che ha la capacità appunto di attraversare mondi sonori e linguaggi anche molto distanti, almeno sulla carta, ma che in realtà poi nei vari autori, nei vari progetti proposti e prodotti dalla Zadig si nota invece come questi universi, questi mondi si possono spesso incrociare, coniugare, fondere dentro linguaggi nuovi. E dunque ascoltiamoci subito nel nostro percorso di stasera di costruzioni, distruzioni contemporanee, Okyung Lee da Noisy Love Songs. Ovviamente, come dico sempre io, buon ascolto. Thank you. E siamo rientrati in diretta dopo questo splendido brano di Oh Kyung Lee, Noisy Love Song, ricordiamo ancora, 2010, uscito per la Zadig. E continuiamo il nostro percorso dentro le costruzioni e distruzioni contemporanee, andando a incontrare una nuova autrice che è la prima volta che compare sulle pagine sonore, radiofoniche e anche multimediali di 451. Si tratta di Julia Kent, musicista originaria di Vancouver, canadese, ma stabilitasi da molti anni ormai nella scena newyorkese. Nella scena newyorkese questa autrice, compositrice e musicista ha incominciato a intrecciare relazioni musicali con molti autori della scena della musica contemporanea, soprattutto quelli più legati alla musica anche elettronica, ma anche in parte improvvisativa. Violoncellista anche Julia Kent, come Oh Kyung Lee, incomincia a fare le prime realizzazioni sonore, i primi album dagli anni zero, quasi in contemporaneo con Oh Kyung Lee, e dunque porta avanti un discorso sonoro dal 2007, dunque da molto poco ha iniziato le sue produzioni musicali individuali, soliste. L'album di esordio è stato Delay nel 2007, per poi arrivare all'ultimo album uscito alla fine del 2013 per la Leaf, intitolato Character, ed è proprio questo l'album che andiamo a scoprire in parte con un brano che andiamo ad ascoltare, per poter avvicinarsi anche a questo mondo della musica contemporanea attraversato da Julia Kent, un modo nuovo anche di sviluppare il linguaggio della musica contemporanea, che di per sé è estremamente ampio e diversificato. Non esiste un vero e proprio codice espressivo, un linguaggio strettamente compositivo legato alla contemporanea, ma diciamo che nella concezione di gran parte dei critici, degli autori e anche ovviamente di coloro che cercano di etichettare il mondo della musica contemporanea, esistono dei canoni comunque, anche se la parola può sembrare antitetica rispetto al concetto della contemporanea, che tende a rompere meccanismi nascendo fondamentalmente da una diramazione della musica classica nel Novecento, sviluppandosi in un'apertura totale verso altre musiche, altri linguaggi e altri stili compositivi. In realtà, appunto, in ogni caso, dentro questa etichettatura generale della musica contemporanea esistono anche ovviamente vari rivoli espressivi, compositivi, che escono appunto da questa etichettatura. Soprattutto dagli anni 50-60 hanno sviluppato compositori, musicisti, forme di espressioni di musica contemporanea estremamente anche urticanti rispetto a molti critici accademici, sviluppando appunto percorsi sonori completamente diversi rispetto a quello che era stato concepito fino allora. Ma ormai sono 40-50 anni che la musica contemporanea si è aperta a contaminazione di ogni genere, e in questo caso stasera affronteremo autori piuttosto recenti, comunque prodotti, album prodotti in questi ultimi anni, che esprimono ulteriormente un'altra evoluzione, un'altra progressione della musica contemporanea verso anche altri linguaggi, soprattutto quelli legati all'elettronica e alla musica improvvisativa. Julia Kent rappresenta molto bene questo modo di concepire la contemporanea in maniera legata agli anni zero. Nel 2013 esce appunto questo album Character, che andiamo a ascoltare con una traccia che può dare l'idea anche del lavoro di Julia Kent. Buon ascolto ovviamente con Character. E siamo rientrati in diretta dopo questo brano estremamente scuro e inquietante, che rappresenta forse concettualmente molto bene l'idea di costruzioni e distruzioni contemporanee. In questo senso ci possiamo anche agganciare a quello che sta succedendo in questi giorni. Sicuramente molti avranno notato come i media mainstream, non soltanto quella televisione, ma giornali e cartacei, ma anche giornali online, stanno portando avanti una costruzione, ecco, giocando un po' sul titolo della trasmissione di stasera, una costruzione di un immaginario abbastanza inquietante in prospettiva. Mi riferisco ovviamente a quello che è successo in Francia qualche giorno fa. Insomma, sono tre giorni che, se avete notato, giornali, ma soprattutto telegiornali televisivi, stanno facendo praticamente vera e propria propaganda, una costruzione appunto di qualcosa che probabilmente crea delle premesse rispetto a strette repressive, rispetto a diritti e a dimensioni, a minoranze e anche ambiti politici rispetto alla dimensione europea. E la cosa che inquieta molto è appunto anche in questo senso la distruzione appunto dei diritti e la costruzione di qualcos'altro che probabilmente si sta facendo anche in Europa dopo la stretta dell'11 settembre negli Stati Uniti d'America. Ed è abbastanza sconcertante vedere come tutti siano incanalati dentro questo bombardamento mediatico, questa costruzione piuttosto inquietante rispetto a quello che ci potrà aspettare in futuro in questa cara, vecchia e disperata Europa, disperata per noi ma non tanto per i poteri forti che portano avanti le loro logiche. Chiaramente molti dubbi rispetto a quello che sta accadendo, anche rispetto alle strategie che stanno portando avanti i poteri capitalistici ed economici, nonché politici, in Europa e non solo, in tutto l'Occidente. È chiaro che tutto quello che è accaduto potrà portare avanti dei discorsi molto molto pericolosi rispetto anche alle strategie economiche, non soltanto repressive o poliziesche in Europa, e non solo, perché il pericolo è sempre che si stia prefigurando qualche altra guerra, qualche altro intervento militare in altre zone un po' turbolente del Medio Oriente, che oltretutto hanno portato avanti degli stati inquietanti islamici, non certamente da soli ma anche con l'aiuto delle care forze occidentali, che hanno massacrato, bombardato e finanziato strutture militari e paramilitari in quegli stati, creando appunto e cercando di spingerci verso la guerra fra civiltà, no? La guerra tra mondi che ormai sono inconciliabili. Tutto questo noi lo rigettiamo, anche come 451, come redazione radiofonica, come trasmissione 451 Intersezioni. Sono sicuro che anche Pier Antonio, che ci ascolta, sarebbe pienamente d'accordo rispetto a questa constatazione, questa denuncia rispetto a quello che sta accadendo a livello mediatico e non solo, perché in prospettiva non sappiamo che cosa potremo incontrare lungo il nostro cammino. Oltretutto, tra costruzioni e istruzioni politiche e strutturali, economiche in Occidente, potremmo anche pensare a delle armi di distrazione di massa, con quello che è accaduto con l'attentato, con la strage in Francia, anche nei confronti di politiche economiche legate all'austerity, verso un mercato sempre più selvaggio, verso meccanismi di sfruttamento sempre più marcato. Potrebbe essere anche quell'episodio un modo per distrarre da quello che sta accadendo sul piano proprio della sopravvivenza economica di gran parte delle masse popolari, che vengono completamente schiacciati in questa dimensione di pericolo. E quando si è sotto un rischio di guerra, qualcuno l'ha scritto proprio in maniera chiara su qualche giornale anche cosiddetto progressista, il rischio appunto che siamo di fronte a una guerra. Con questa motivazione si può andare incontro ovviamente a strette e a sacrifici che ovviamente colpiscono sempre le solite dimensioni di classe. Andiamo a percorrere ancora le nostre invece costruzioni, le nostre costruzioni, le nostre distruzioni contemporanee. Andiamo a pescare un autore straordinario, importantissimo nella scena del Novecento e della musica contemporanea. Parliamo del pianista John Tilbury, che ha lavorato con i grandi del Novecento nell'ambito della musica contemporanea, ma ha avuto sempre anche la capacità di collaborare, di portare avanti dei progetti musicali anche aperti a contaminazioni legate alla musica elettronica, alla musica soprattutto improvvisativa. E proprio proprio su questo andiamo a ascoltare e a trovare un album uscito esattamente nel 2009 insieme a John Tilbury. C'è il progetto, il quartetto dei Paul Weschel, musicisti importantissimi della scena europea. Parliamo di Burkhard Bynes, Martin Brandmeier, Michael Moser e Werner Daffelker. Quattro musicisti che fanno parte di questo quartetto di musicisti che si muovono tra la musica improvvisativa, radicale e chiaramente anche la musica contemporanea, che hanno realizzato questo splendido lavoro intitolato Field nel 2009 proprio con il grande John Tilbury. Paul Weschel oltretutto ha lavorato anche con altri musicisti importanti della scena contemporanea e non solo, portando avanti ormai già da 15 anni dei progetti musicali, dei tour anche molto molto belli di live con altri autori, mantenendo questa apertura come collettivo musicale, come quartetto appunto di musicisti aperti a contaminazioni e sperimentazioni, anche a progetti nuovi, anche estemporanei, legati a singoli festival o a singoli eventi. Andiamoci dunque a ascoltare dall'album Field, uscito per l'etichetta Atology nel 2009, un frammento di una traccia estremamente interessante che si muove dentro una sorta di flusso, seppur ramificato, diversificato, attraverso suoni e dimensioni compositive anche molto differenti una tra l'altra, ma dentro un filo logico che porta avanti un flusso compositivo contemporaneo molto molto suggestivo. Ci andiamo a sentire proprio la traccia che dà il nome all'album, Field, ovviamente un frammento, dato che la traccia è estremamente lunga e coprirebbe quasi tutta la seconda parte di 451 intersezioni di stasera. Buon ascolto dunque con Paul Weschel e John Tilbury dall'album Field. E siamo rientrati in diretta, 451 intersezioni, Radio Città Fujiko. Purtroppo abbiamo dovuto scalare le marce del brano, dato che sarebbe andato avanti un bel po' e stava anche salendo come dinamica compositiva. Un frammento dunque dallo splendido lavoro di Paul Weschel e John Tilbury dall'album Field del 2009, e dentro questo percorso di stasera di costruzioni e distruzioni contemporanee ci affacciamo invece a un autore che esce dalla musica contemporanea, tra i compositori diciamo più importanti della scena giapponese degli anni 70 e 80, per poi incominciare a lavorare anche con album solisti dagli anni 90 e da composizioni con composizioni proprie appunto dagli anni 90 in poi. Parliamo di Toshio Osokawa, musicista e compositore della scena accademica giapponese, tra i più importanti, allievo prediletto di Isang, uno dei più importanti compositori giapponesi del Novecento. Ha portato avanti appunto gli studi sia in Giappone ma anche poi al Conservatorio di Berlino, per portare avanti poi anche collaborazioni con musicisti della musica contemporanea europea dagli anni 80-90, fino ad arrivare appunto a una delle prime composizioni dalla metà degli anni 90 fino ai giorni nostri, con composizione nell'ambito della contemporanea, diciamo più canonica, più dentro gli stili e le forme tipiche della musica contemporanea. L'album in questione, in realtà una composizione uscita nel 1997, una delle prime Utsurori Nagi, composta appunto da due brani, da due sviluppi compositivi, e noi andiamo a ascoltarci il primo. Anche qua sono composizioni estremamente lunghe che si affacciano quasi all'ora proprio del un'ora di minutaggio ciascuna. Noi ascolteremo ovviamente un frammento dalla composizione Utsurori Nagi del 1997, per affrontare l'idea e anche la concezione della contemporanea, tra virgolette, perché sempre tra virgolette, più canonica rispetto agli autori e musicisti, alle opere che abbiamo ascoltato precedentemente. Toshio Osokawa.

E siamo ritornati in diretta, anche perché purtroppo i minuti sono contati, siamo verso la fine di questo percorso sonoro di stasera di 451 intersezioni, costruzioni, distruzioni contemporanee. Vi ricordo ovviamente che lunedì prossimo saremo sempre qui su Radio Città Fujiko dalle 20 alle 21 con la prossima puntata di 451 intersezioni. E poi vi ricordo anche che mercoledì prossimo, dunque tra due giorni, da mezzanotte alle due circa, ripartirà 451 frammenti sonori con la conduzione di Max Macchia, che saluto dalle frequenze radiofoniche. Abbiamo ascoltato appunto un frammento di questa splendida composizione, Toshio Osokawa da Utsuroi Nagi del 1997, purtroppo forse, dato che i suoni erano anche abbastanza lievi, molto bassi anche a livello di volume, con dei picchi e degli alti molto molto presenti verso in alcuni momenti della composizione, forse a livello radiofonico si perdono alcuni elementi, fruscio, rumore di fondo e dimensione forse non perfettamente consona a una trasmissione radiofonica. Spero che comunque l'ascolto sia stato piacevole, più possibile suggestivo, di questa splendida opera di Toshio Osokawa. E andiamo a chiudere la puntata di stasera con un autore che non entra perfettamente dentro la dimensione della musica contemporanea, ma si affaccia attraverso delle sue composizioni soliste avvenute in questi ultimi anni. Parliamo di Brian McBride, uno dei componenti del progetto storico dei Biosphere, formazione che si è mossa nella musica elettronica e specificamente ambientale, con degli album splendidi tra gli anni 90 e inizi anni 0. Poi la formazione si è praticamente sciolta e Brian McBride, uno dei due elementi dei Biosphere, ha portato avanti delle composizioni solistiche personali che si muovono sempre sul territorio ambientale, ma con delle fortissime coniugazioni con la musica contemporanea. In particolare l'album che andiamo a ascoltare, una traccia da Effective Disconnect, uscito nel 2010, dove McBride lavora appunto su archi che vengono manipolati, costruiti e effettati dentro una dimensione che può avvicinarsi molto alla costruzione e alla composizione della musica contemporanea. Dunque un modo ovviamente a latere di intendere l'idea della musica contemporanea, dentro perfettamente la costruzione di stasera, di costruzione, scusate, gioco di parole, distruzioni contemporanea. Chiudiamo dunque con Brian McBride. Io vi aspetto ovviamente lunedì prossimo dalle 20 alle 21 sulle frequenze di Radio Città Fujiko, e ovviamente vi lascio poi alla fine della trasmissione alle trasmissioni di Radio Città Fujiko di questa serata. Un saluto da Elisio Scarpa e buon ascolto con l'ultimo brano di Brian McBride.